L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao amore, dalle 6:30 alle 9, non mi rompere i coglioni che c'è la zanzara. Due notizie dall'Italia di oggi, caro David. La prima notizia è questa: profughi a Venezia, anzi a Vicenza, vogliamo avere la casa in centro. Prima di farsi identificare, 9 profughi provenienti dal Gambia, anzi dalla Guinea. Guinea. Prima di farsi identificare e fotografare, hanno chiesto se per favore potevano essere ospitati in centro, non in periferia. Questo chi lo riferisce questo? No, ma è una nota, il giornale di Vicenza. Il giornale. Vogliamo avere la casa in centro. Ecco. I signori, quindi, profughi. E quindi tutti pronti, carrozzone di Rete 4, quinta colonna, forza, telecamere lì, cittadini in rivolta, accendete le camere, Poletti pronto. Che succede a Vicenza? C'è la guerra, vogliono anche la casa in centro, telecamere. Un povero stronzo in studio di sinistra a prendersi le sberle e il popolo di Vicenza che urla: vergogna, sito matti, cretini, via, tornate a casa vostra. Finita la sceneggiatura, finita. Dai ragazzi, non è possibile, parliamo di una cosa seria. L'economista attacca Renzi, questo è un tema molto importante. Sì, però pare che ci abbiano un po' ripensato. Esatto, questa è la cosa, cioè, ti rendi conto? Sì, manco più l'economist ormai. C'è una volta l'economist, che giornale economico importante, aveva una sua linea. Attaccava a testa bassa. Oggi invece Cavaliere, si dividono come la DC. Si dividono. Oggi fa cucucu. Dice sì, se vince il no va bene, però poi fa ridire no, ma deve vincere sì. Ma vaffanculo, Gregorio. C'è più certezza. Altra notizia niente. Drammatica. Fermi tutti. Sì. Efebal smette di fare la escort per diventare una cantante. Amico mio. Questo è buono, eh? Perché è buono? Beh, importante, tu dici, è l'inizio dalla fine della prostituzione, dici? L'inizio dalla fine della prostituzione. È un inizio, anche potrebbe essere sta... un esempio, dici? Potrebbe essere un esempio. Esattamente. Però io sono in attesa solo di una cosa. Tu lo sai, caro David, sono in attesa solo del referendum di una cosa. Del 4 giugno, hai ragione. Bravo, domenica giusto. Prossima ci sarà un evento. Domenica. Un evento sulle colline di Firenze. No. Il divino Otelma. Farà una sorta di. Come dire, di sortilegio, di predicozzo, chiamiamolo così, per la caduta del governo Renzi. Com'è che l'ha detto? Farà un sortilegio. Non mi ricordo come l'ha chiamato. Ma è matto. Il divino Otelma ieri sera, sentite. Divino perché ubriaco. Noi saremo nei pressi di Firenze, in un sito messo a disposizione da un affiliato all'ordine. Un coglione. E ci sarà naturalmente, come è stato annunciato, a mezzanotte di domenica 27 allora, mezza novembre. L'appuntamento è mezzanotte. Me lo scrivo così. Un rituale che è stato predisposto da chi? E che ha per scopo primario la eliminazione dalla scena politica. Sì. Del Duce Puffo, in particolare la sua sconfitta sonora, eclatante. Sì. il rituale contro il duce Puffo. Procuratevi ciò che è facillimo. Una immagine del duce Puffo. Ecco, questo è importante, sì, aspetta. C'è di Renzi? Sì. E tenete la portata di mano. No, sì. Non sì. E allora? A mezzanotte. Sì. Deponetela al suolo. Al suolo. Malato di mente definitivo. Sull'immagine nefasta del duce Puffo. Cosa? Il vostro piede sinistro. Cioè, sì, aspetta, inventando anche tutto, anche il pavimento va bene di casa? Sì, certo, sì. In certo. Casa. Aspetta, fammi sentire. O all'aperto. Ecco, immagine per terra, uno piede sinistro, uno si deve vestire di bianco. Anche di bianco. Vestiti di bianco, ma se siete in casa ciò è molto facile, potete utilizzare un lenzuolo. Sì. Ecco, sì, se mi metto un lenzuolo addosso, i miei parenti chiamano la polizia, se metto faccio sto rituale. Lo gnomo malefico del vostro studio. È silente, ma non è silente, questo è pazzo, ragazzi. Aspetta, ti prego. Poggerete il piede sinistro sulla nefasta. Ti immagini un napoletano che fa questo rito? Vabbè, andiamo avanti. E a questo punto ripeterete a voce alta. Ecco la formula, aspetta che ve la scrivo. Sette volte consecutive. Sette volte. Sì. Prendete nota, registrate. Siamo qui. Dica la stronzata, forza. Perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano il 4 dicembre. Oh Matteo Renzi. La frase è la seguente. Sì. Memorizzatela, ecco, scrivetela. Siamo pronti, siamo pronti. Sì. Tu perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano il 4 dicembre 2016. Oh Matteo Renzi. Ripetete ciò per sette volte consecutive. Parenzo, facciamo insieme. Sì, allora, per tu, tu, divino Telma, sei un cretino patentato. Tu, divino Telma, sei un cretino patentato. Non ho mai conosciuto nessuno più stupido di te. Fermo. Stupido. Allora, stupido. Andate a vedere chi è il divino Telma. Guardate come si veste. Mi volete? Sei un suo leccaculo. Cretino patentato. Il mago. Senti il maghetto qui. Senti il mago come si è subito alterato. Il mago. Ma aspetta, divino. Ma non è un linguaggio da mago questo. Cretino patentato. Vai a lavorare, Parenzo. Venditi utile. Divino. Quante braccia sprecate con senti, tutti i lavori. Divino. Senti, divino, perché non prevedi che io tra 30 secondi ti mando a fare in culo? Perché non lo prevedi questo? Ti 30 secondi. Parenzo. Allora prevedi questo, divino. Aspetta. Benediciamo tutti coloro che il 4 dicembre. Ma vai. Ma cosa vuoi? Ma vai a farti benedire, non benediciamo. Divino, aspetta, no, divino, scusa. Fammi spiegare. Aspetta, questo, devi stare zitto un attimo. Devi stare zitto. È un idiota. Ha detto semplicemente che Renzi cadrà per il suo rituale, cadrà per il referendum. Somaro d'un somaro. Patenta, cretino patentato. Rifiuto del genere umano, il mondo spercazzo di vacca. Ma cosa dice? Cocciti per sette volte. E se possibile aggiungi. Ma non è un linguaggio da mago. Ma non è un linguaggio. Ah, no. Ma che razza di mago è? Segaiolo di merda. Ha perso le staffe il mago. Dino. Il mago. Whatever his feet would tread. Crucià, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento la zanzara. Comunque, caro David, un segnale che il mondo sta per finire, viene non solo da questo, da questa performance del Divino Telma. Tanto il Divino ha perso completamente la sua santità, perché l'avete sentito. Ho parlato oggi con una bravissima psicologa, la quale mi ha detto che è evidente il disturbo dissociativo dell'identità. Cioè siamo di fronte a un... Non è complicato da capire, no, però. Disturbo dissociativo dell'identità. Andate a vedere una foto del Divino Telma, vedete come si concia, associate la faccia alle minchiate che ha detto. Perché tu, Cruciani, hai una colpa, che ogni volta lo fai venire qui per fare delle previsioni. Previsioni su cosa? Su cose che, di cui tu, su cose che tutti sanno, no? Cioè dice, il problema oggi qual è? Renzi. Certo, che problema ha Renzi? Il referendum. Allora, siccome probabilmente i sondaggi dicono che c'è il no, quello ha letto dai giornali, anche malamente, che vincerà il no, e si è inventato sto cazzo di rituale con i sette cose. È un bandito, ragazzi miei, un bandito. Sette volte. Ma chi sei? Pare che sia stato anche... Poi, quando, se dovesse vincere il no, lo stronzo, perché così è... Dice, l'avevo previsto. L'avevo previsto! Ma cos'è che avevi previsto? Che cosa? Comunque, no, ma poi ho maleducato. Un altro segnale, che il mondo sta per finire, sì, viene dalle madre e figlia, come sai, le Marchi, no? Quelle che tu chiami adorabile che coppia. Dovrebbero partecipare, addirittura sono in pole position per il Grande Fratello VIP, caro Parenzi, il Grande Fratello VIP. Vado via in cerca di una vita sopportabile. E allora, se dobbiamo trovare una vita sopportabile, allora dobbiamo girare parecchio, andare in laser. Hai creduto? Taglia della, taglia lina, taglia grossa, taglia fina, con Pondor farsotte con sé. E qui Napoli vengono a dire poesie dal cielo e dal mare, poesia che deve sparire, danza al piatto dal mitagliatel. Taglia bella, taglia lina, taglia grossa, taglia fina. Tutto questo in un'autovettura al centro di Milano, caro questo, Pare. Questo il mondo, almeno, tutto, sì, no, ho capito quello che dici, ma tra tutto quello che queste due hanno fatto, questa è la cosa forse migliore. Comunque, cioè, comunque Grande Fratello VIP per loro praticamente quasi sicuro, però voglio dirvi un'altra cosa, cari amici. Questo è quello che avviene, anzi questo è quello che avviene a Napoli. Parliamo di una cosa molto seria stavolta. C'è un signore che fa gli allacci abusivi. Grande servizio ieri sera, credo fosse Piazza Pulita, se non sbaglio. Gli allacci abusivi. Cioè, c'è un signore che, se vuoi, ti fa gli allacci abusivi. Veramente? Sì, ti giuro. Buon? Senti. Facciamo un pacchetto luce e gas, tutto nostro. Pacchetto luce e gas napoletano. Non napoletana gas, no Enel. Pacchetto luce e gas napoletano. Come si dice a Napoli, una botta, due uccelli. Ma quanto se lo fa pagare il pacchetto napoletano? Posso fare un 500 euro luce e gas, ma bisogna vedere la quadratura della casa, perché poi comunque i amici sono scemi, vengono a bere a te che tiene una casa di 500 metri quadri, 300 metri quadri, mi pigli 300 euro, non me li posso prendere 300 euro. Ti fanno il pacchetto luce e gas. Senti, pacchetto senti. Luce? Senti, luce e gas insieme. Cioè, luce. Ma in che modo? Adesso te lo spiego, senti. Chi sta a corrente che viene all'Enel direttamente? Va a fermare a rete con contatore che si fa, dove ci sono due viti, vita maetta, allargammo. Nel frattempo cadendo un incastramme che lati di fila e l'allacciamento abusivo e a segnimanata vota, per cui primo comuntatore legge quello che consumi più a sé viene misa la coppa a monte, poi ci mettiamo la televisione, il climatizzatore, e a sotto invece noi ci lasciamo l'impianto regolare, quello che consumi più poco, il lampadino, voglio dire, un ventilatore solo, il mometto, tutta roba che consuma poco, in modo che noi la bulletta pavamo stesso, pavamo più poco, lei nella vera comuntatore ci sei. E non rompi i scavi. E vedono gli ispettori dell'Enel. Vengono un contatore, gira sempre. E non rompo. Comunque c'è della genialità in questo. Cioè, ti fanno i pacchetti per gli allacci gratis. Io voglio fare una rubrica. Sì. Le follie di Napoli. Le follie di Napoli. Le follie delle economie laterali. Le follie di chiamare. Napoli. Succede qualcosa anche a Bari, caro Parenzo. Succede qualcosa a Bari, anche a Bari. A Bari. Dove gruppi di Rom. Gruppi di Rom. Quanto ti appassionano queste notizie sugli immigrati? Indisturbati. Gruppi di Rom indisturbati. Cucinano davanti allo stadio di Bari un capretto. Un intero. Così all'aria aperta. Un capretto. Senti, stupendo. Per il compleanno di un ragazzino. Oggi era un compleanno, dobbiamo cucinare, che noi ogni anno facciamo, quando c'è Natale facciamo le feste nostre, come voi in Italia che fate le feste, pure noi facciamo queste feste in Italia, anche a Jugoslavia, e dove siamo noi festeggiamo. I signori Rom. Bisognerebbe spiegare. All'aperto, vediamo, all'aperto. Hanno un problema di comunicazione questi signori Rom. Perché devono rilasciare queste interviste? Senti, no? Senti. Cioè, non è normale mentre siamo mangiando c'era, un capretto. Caduto, c'era, c'era un capretto là. Ma noi appeso. Vuole mangiare il capretto, è normale. Vuole. Noi buono come voi fate Natale. Sì, amico mio, ma noi facciamo Natale a casa, con la famiglia, il tavolo apparecchiato. Non ci mettiamo a mangiare per strada. Ecco, loro hanno un problema di comunicazione. Cioè, dovrebbero, anche un problema un di comportamento. Anche di comportamento. Però anche un problema, ma perché rilasciano queste interviste? Quando tu vai in un campo e dici scusi, voi rubate? No, ruba! Certo che ruba! E ci cazzo, ma non dirlo almeno, no? Aspetta, cioè, aspetta. Ma che ladri? Sono senti, ladri senti. Particolari! Senti, perché senti. Sono ladri che si autodenunziano, capito? Senti, curioso! Ma dove avete preso? Cos'è? Un agnello? Allora l'abbiamo preso da questo pastore qua. 130 euro l'abbiamo pagata. Non ce l'ha regalata. Eppure non è un cane, non è un bambino, una pecora quella sarebbe. Viene il dottore, hanno detto che la polizia che viene il dottore per vedere cosa è. Beh, amica mia, scusa, tu compri una pecora enorme. La uccidi già morta, immagino. Sì. Oppure l'hai sgozzata, non lo so, la appendi per strada. Ecco, per strada. È un po' davanti strano, allo stadio di Bari. Vuoi che sì. non vengano i carabinieri, agenti della sanità, sì. a controllare che cazzo è quei ragazzini, è sì o così, no? Sì. Però è bello che loro si stupiscono, capito? Questo è molto meraviglioso. Cioè, la loro ingenuità, loro. Noi mangia pecore scuoiate davanti a stadio. Come voi fate Natale? Cioè, sì, sorella mia. Noi Natale lo facciamo con altre regolette, però. Tavola apparecchiata, bella imbandita, a casa. Arrosto, vedi tutte le cose per quello, per me lo mettiamo là un bidone subito si gira, ci abbiamo già il legno che abbiamo preparato. Ma la sono le galline che già pronti sono in pizzeria. Ma i bambini vanno a scuola? A scuola soltanto oggi che non sono andati perché sono festa, c'è il compleanno. Perché è una festa. Ecco. Ah, ragazzi miei. In tutto questo, caro Palazzo, in tutto questo c'è anche chi dorme, chi si accompagna con le galline. Vabbè, questo con le galline. Silviamo Dio, che già avevamo scoperto in diverse trasmissioni qui a Radio 24 insieme ad Enrico Lucci, dorme con le galline che le cagano pure sul letto. Quante galline sono passate in questa casa? Ah, più di 100, 150. Tu, quando loro mangiano gli insetti, li sgridi? Sì, mi dico, ma lasciale vivere l'insettino. Quale insettino preferisce? Loro, le cimici. Ma che dentro casa c'hai le cimici? No, però io e lui viaggiamo. Ma tu sei anche contro l'allevamento del contadino? Sì, sì, sì, assolutamente. Il contadino allora perché dovrebbe avere le galline? Le galline innanzitutto fanno una compagnia. Quindi per galline, compagnia prima cosa. Ragazzi, io non ce la faccio, però le galline come animali da compagnia è vero, non è una cosa nuova, ma ogni volta che la sento mi sento. Cioè ogni volta che ascolto questa cosa mi sento male. Cioè, cosa cazzo ti dà una gallina come compa? Ma non è possibile. Ma hai qualcosa nel cervello che non funziona se pensi una gallina ti possa fare compagnia. Una gallina, amico mio. Gallina. Diciamo la verità. Una gallina. Non un cane, un gatto. Gallina. Ma ti scandalizzi così tanto? Dai. A quella gli piace la gallina e si tenga la gallina. Che profumo di maschi, Cruciani. Roma Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Novembre saremo tutti a Fiorenza a schiacciare la foto di Renzi con una veste bianca. Viva il divino! Sto girando per casa con un mantello bianco e recitando: tu perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano il 4 dicembre 2016, oh Matteo Renzi. Siamo al top. Domani faremo un'ordinanza. Nell'ordinanza inseriremo una cosa importantissima: per chi viene dall'Africa, chi viene nei nostri territori, deve avere un certificato medico. Chiusa un'epoca, alla riscossa si riparte. Questo uomo ha diviso la città, ha evocato Ebola, questo signore qui. Beh, è finita un'epoca, si è chiusa un'epoca. Io posso essere uno qualunque, posso avere una maschera, non è importante. È importante il solo delle idee. Va ricostruita in città una convivenza civile tra le diverse anime della città che sono state in questi anni violate e violentate. Pezzi di città messi l'una contro l'altra. Ragazzi, siete tanti, lo so, ma ce la faremo, riconquisteremo questa città. Siamo qui a dire: ricostruiremo Padova. Continuano gli spot elettorali. Ha fatto bene questo, bravi, bravi, bravi. Con la frase bravi di Didolci all'inizio. Di Milano, bravi, bravi Riccardo Paoli. Ma che c'entra, questo l'ha fatto Marchesi, un ascoltatore. Bravo Andro L'ha fatto un ascoltatore questo. E quindi i nostri redattori non fanno un cazzo? No, bravissimi, bravissimi voi, bravissimi. Fermi tutti, fermi, fermi tutti. Ha chiamato... Andiamo a casa, è venerdì? Black Aspetta, Friday? Ha chiamato Black Friday? Friday. Sì, no, Black qui, Friday. È, qui è Red Friday. Ha chiamato la signora della gallina, Silvia Modio. Buonasera, buonasera. Eccolo qua, finalmente. Come andiamo? Bastardo. Come andiamo, maledetta, con la gallina? Cosa ci vuoi dire con la gallina? Ah, questa è quella che dorme con la gallina. Io adesso, oh, adesso di. Non è che tutti quelli che hanno una gallina si chiamano come me, quindi mi dissocio completamente da tutto quello che hai detto prima. Io non lo so perché mi è stato riferito da un collega che era in macchina, mi ha detto: ma guarda che non eri tu, non era la tua voce. Ma come, no, appunto, come no, come no, come no, tu, non ero io. Eri no. Tu con cosa? Eri tu con Luci? Assolutamente no, è un'altra ragazza che evidentemente anche lei tiene le galline. Ma non eri tu? No, adesso appunto ripeto, non è che tutti quelli che hanno una gallina. Cioè, tu hai fatto un servizio con Luci o no? Assolutamente no. Vabbè, beh, è uguale, ma hai una gallina? No. Hai una gallina? Allora sì, tu sei stato vivi con una gallina, vivi l'altra con... volta ti... vivo con una gallina, non vivo con diverse galline, solo con una. Ti ho mandato anche un video, mi ha detto la Rosita che te l'aveva detto, che te l'avrebbe lasciato, ti ha mandato la mia gallina e saluti personalmente. Non so sì, ma se... ho capito, ma tu dormi con una gallina ogni tanto? No, io non dormo con una gallina, lei dorme nel suo posto, io dormo nel mio, non dormo insieme a una gallina. Ma la gallina, ma signora mia, dorme in casa? Stranda. Beh, insomma, signora mia, ma la gallina dorme in casa o nell'aia, come si dice nelle case di campagna, nell'aia? Guarda che le galline in tempo di guerra dormivano in casa, non è in una tempo cosa di guerra, così insolita, ci in sono tempo tante di guerra. Persone. Le galline in poi tempo di guerra. Ma non è una cosa così insolita, è un animale insomma domestico che è domestico da 8.000 anni. Sì, la portava pure, chi è che la portava in giro, Davide? Non mi ricordo più. Chi è la che gallina? Giro con una gallina? Cocchi e Renato erano, no? Sì, no, qualche... quell'altro è quello del papà di Valentino Rossi, ma lui lo faceva per provocazione. Guarda che è un'esperienza molto interessante invece, perché... Ma cagano in casa le galline? Fanno questa è domanda ovvia. Ma perché mi chiedete tutti la stessa cosa? Beh, perché è normale? Perché? Qual è il problema? Cagano in casa, appunto, sì è o anche no? Normale, è anche normale fare la cassa, no? Cioè, i cani. Ma non dove fanno la fanno? La cacca, dove la fanno in casa? Vuoi le che galline? Ti dica che la faccio nel gabinetto? No, no, non la fanno, no, no, no, sto chiedendo, veramente sto chiedendo se la fanno... Sì, allora la Nina, nello specifico, Nina, una sì. Se vogliamo entrare nei dettagli della faccenda, una gallina molto molto piccola, pesa 2,5 kg, quindi di conseguenza anche la sua cacca è molto molto piccola. Ah, giustamente. Capita, ma dove la fa? Nel suo o per casa la fa? Sì, tendenzialmente la fa ogni tanto, poi, ma sono delle cose talmente impercettibili e sode, sempre merda. Sì, però guarda, voglio dirvi questo, uno dei miei avvocati del mio staff legale, l'avvocato Giorgia Bevere, mi segnala giustamente il mio staff legale enorme, tutte le staff legale, mi informa che ad esempio il grande matematico napoletano Cacciopoli girava con una gallina. Guarda, oh, che questa... grazie, vedi, allora, ragazzi, che non, ma sono, non potete, che adesso non sono... potete dirmi che è normale girare con una gallina. Non è normale, non è normale. Ma non è questo. Sì, cara Silvia. Allora, vogliamo parlare di che cos'è normale? Cioè, ma tu sei normale? Avvocato Giorgia Bevere. Ma no, magari lascia perdere. Sì, su questo potremmo aprire un grande discorso. Che odia normale, scusa. Che cosa odia normale? Beh, come cos'è di normale? Cosa odia normale? Cosa hai di normale? È più facile dire. Ma uno che uno... Ma diciamo che entrambi voi due avete delle anormalità. Ma una persona che si accompagna a una gallina, amico mio. Io non mi accompagno con una gallina, non come petto una gallina. È una persona che si stupisce così tanto che uno ha. Ma perché una gallina? Non capisco perché una gallina, ma prendete un gatto, ma prendete perché un cane, ma perché no? Ma allora, come perché no? Allora, dai, ma cosa dire, perché no? Dimmi perché no. Ma perché Gigi Meroni, cosa danno dice Giarrusso, cosa sì, danno Gigi più? Meroni, la gallina guinzaglia. Gigi Meroni, ex giocatore del Torino. Conoscerla, sì. La Nina, così ci scagniamo personalmente. Io, no, io voglio capire una cosa, vengo volentieri, ma... Ma se io te lo dico, tanto tu non mi credi perché... Che cosa ti dà la gallina? No, non sto ironica, che cosa ti dà? Allora, mi dà esattamente quello che mi dà un altro pezzo d'affezione. La Nina riconosce il tuo nome, è obbediente, è simpatica, fa tantissima compagnia. Adesso sposto la cosa su una questione molto più seria. In un paese anglosassone usano le, adesso qui tu ti farai una risata, usano sicuro. Le galline per fare la chicken therapy e hanno verificato che con i pazienti affetti da Alzheimer hanno degli esiti positivi, dei vantaggi con le galline pazzeschi, perché le persone che sono ammalate. Ma tu la consideri come un figlio? Assolutamente no, perché non è un figlio, è un animale. È un animale, meno male, già abbiamo fatto un passo in avanti. Già un passo in avanti. Ma trattare gli animali come dei figli, amarli tanto è giusto, ma trattarli come dei bambini è sbagliato, non sono dei bambini, sono degli animali. Ma tu ci parli o no? Vabbè, ma tutti quelli che hanno gli animali parlano. Ma ci parli con la gallina o no? Ci parlo, ci interagisco, sono convinta parla che certe con la cose... Interagisco con la gallina. Così superficiale, non leggero. Che è ma no, cosa. Ma parlare con la gallina, mica ma mia, ma, ci manca pure la gallina in casa adesso. Vabbè. Ma quelli che se le mangiano, come li consideri quelli che se le mangiano? Considero persone che si mangiano prima di tutto un sacco di antibiotici che fanno male, per cui uno dovrebbe. Ma io perché appena vedo una gallina penso subito al pollo arrosto? Io però, al brodo, scusatemi. Io al brodo. O al brodo chi di pollo. Chi è che ha parlato adesso? Parenzo, Parenzo dice Parenzo, il pollo arrosto, cara. Io al brodo. Il brodo, io ottimo. No, invece penso che quando sono seduta sul divano mi fa tenerezza la Nina. Comunque, che viene sul divano con la me. Nina, viene sul divano con te, autonomamente viene sul divano con te. Cioè ti vede sul divano... Beppe, vuoi venire qui a conoscere la Nina una volta per tutte? Ma guarda che questa vuol conoscere te, Beppe, cioè con no, la scusa guarda, della gallina. No, con no, la scusa no, della gallina, questo, no. Questa vuole portarsi il cruciale buona. In casa, cioè il maiale. Vuole aggiungere alla gallina il maiale in casa. Questo è buono. Ma per carità di Dio. No, per carità di Dio, stiamo caldi. Che vuol dire per carità di Dio? Adesso non esageriamo. No, cioè, guarda. Ti ha chiesto di andare a casa sua a conoscere la gallina. Che c'entra? Che tu non è che puoi stare solo. Ma non è un invito. Ma non ho capito, tu no. se uno mangia la carne, se uno mangia la carne no, niente. È perché conosco il percorso di Cruciani e sono sicura che se conoscesse personalmente la Nina amica mia, ma io conosco delle persone, non conosco, non posso venire a conoscere la Nina. Ma non vengo a dice vengo a conoscere la Nina. Buongiorno Nina, buonasera. Buonasera Nina, mi dai la mano per ti vieni a sedere con me sul divano? Tu la chiami sul divano questa Nina o no qualche volta? Dimmi la verità, la chiami sul divano? Beh, sì. No, non è che la chiamo, perché lei viene da sola. Viene da sola, tu, ti vede sul divano e viene sul divano. Io faccio una domanda, tu non hai mai avuto... Cioè, ti sei mai relazionato in vita tua con un cane, con un gatto? Sì, però la gallina non ce la faccio, non ce la faccio. Dimmi se ti sei mai relazionato con un cane. Ma com'è la pelle? La pelle della gallina è un po'. Ma vedi che non mi rispondi? Ma sì, certo, mi sono relazionato, non c'è dubbio, certo. E allora, e com'è andata? Non mi ricordo, tanto tempo fa che relazione ero ragazzino, normale, relazioni normali che hanno i bambini, i ragazzi con i gatti eccetera. Dai, un po' di tenerezza ma non c'è dubbio su questo, ma la gallina non può fare tenerezza, la gallina, amica mia, io alla gallina gallina penso al brodo, al pollo, alle... Ma perché tu sei bastardo dentro? Ma perché tu non le mangi? Iniziare. Perché tu non mangi la carne? Ma è ovvio che no. Beh, no, se non c'è la gallina assassini, in casa. Dimmelo, assassini maledetti. No, assassini carnivori, mangia cadaveri. Quello non è il mio stile, però. Ciao, ti abbraccio. Se ciao. Vuoi ti invito a una cena vegana, così magari ti faccio la cambiare idea. Cena vegana. E due. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Detto a tutti i miei colleghi, non voglio rotture di coglioni quando sento la zanzara al lavoro. Basta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Gamma Suzuki 4x4 All Grip, a partire da 13.900 euro. Suzuki. La zanzara. Volo Bruxelles-Roma. Accanto a me tipo distinto, cravatta e giacca d'ordinanza. Durante il volo ascolta il podcast della Zanzara. Mitico, penso io. Atterriamo e questo per salutarmi allunga la mano e la mi prende un colpo. Durante il volo è andato in bagno, ma si sarà lavato le mani. È un crucianiano o un parenziano? Io nel dubbio la mano non gliela stringo. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora ragazzi, qualcuno ci dice: perché non parlate della Boldrini e di quello che ha scritto la Boldrini, ha pubblicato il Presidente della Camera, gli insulti che ha ricevuto? Per carità, siamo qui assolutamente a disposizione, a disposizione. Certamente gli insulti che riceve il Presidente della Camera sono qualcosa di orrendo, sono qualcosa di osceno, vergognoso, di osceno. Quando uno dà della troia, le ha pubblicati lei, se volete ve li leggo tutti. Non occorre entrare nel merito. Non occorre, le ha pubblicati lei, che vuol dire non occorre? No, le non entriamo nel merito a quest'ora, magari sono i bambini in macchina. Allora, la Boldrini, per dire, per porre questa domanda, secondo voi questa è libertà di espressione? Ha pubblicato oggi, in occasione della giornata sulla violenza delle donne, non voglio nemmeno dirlo perché lo sai che non mi piace. Sei allergico tu alla... Sì, sono allergico alle giornate in generale, non sulla violenza. No, oggi per me è stata una giornata meravigliosa. Invece. Allora, secondo voi questa è libertà di espressione? Questa è la frase utilizzata da Boldrini. E poi ha messo diversi commenti. Alcuni di questi sono di un tale Onofrio Filitti: Boldrini sei una troia. Un altro: Giovanni Bonomi, a pisellate in faccia ti prenderei MILF. E un altro: Faro Di Maria, alcuni sono dei fake, ma mai nessuno l'ammazza sta terrorista. Un altro: Sergio Clinco, gran puttana, e così via. Naturalmente il tenore dei messaggi è questo. Ora, cosa volete che vi dica? Io sono a favore di questi messaggi, ma questi qua sono dei delinquenti, cioè questi qua sono dei criminali, sono finiti in galera, non credo. Sì, vanno individuati. No, uno può sopportare, secondo me se uno è presidente della Camera dovrebbe togliere i commenti dal proprio profilo Facebook, probabilmente. Non c'è bisogno di leggere i commenti. Ma se uno viene offeso deve... Sì, ma le offese su Facebook deve usare sono gli strumenti della legge. Ma se le offese su Facebook sono normali, ma sai quante cose arrivano a te? Più. Sai quante cose arrivano a te? Arrivano un sacco, che nemmeno lo sappiamo. Io denuncio, infatti. Ma non c'è bisogno. È meglio certo farle sfogare, le persone sfogatevi. Ma farle sfogare dopo, ma venite qua a dirmelo in faccia, venite qua fuori, venite qui davanti, ditemelo in faccia, non scrivetelo come ma dei coniglio. Ma non cambia niente, non cambia nulla, che non ti porta nessun danno. Guarda, avevano molto più il mio rispetto. Sono una vergogna questi qua. Schifosa, ma avevano molto più rispetto, il mio rispetto, quelli che di notte negli anni 70 con gli spray andavano a scrivere da destra adesso come a sinistra, boia, chi molla. Ma non c'entra nulla, sono due cose diverse. Perché dai. Erano meno codardi. Comunque, avevano coraggio, questi coraggio, invece della rete, da casa, insulti da casa, almeno quelli andavano a scriverlo con lo spray sotto casa, e se quello scendeva gli tiravano le mazzate in testa. Comunque, questi da noi casa... possiamo criticare mille volte la Boldrini per le cose che dice, per le cose così, utilizzare anche, come dire, un linguaggio particolare, un linguaggio forte, ma ovviamente queste cose vanno oltre. Cioè, cosa dire, cosa significa dire una sei una troia? Cioè, come se la parola troia fosse offensivo nei confronti di una donna. C'è uno che vorrei pizzicare. Ma abbassa sempre il telefono, perché uno di questi qua che sono stati resi noti dalla Boldrini, forse possediamo un numero di telefono. Possediamo un numero. Un signore che fa il cuoco. fuoco. Vabbè, Valerio dalla provincia di Roma, dai. Niente, non risponde sto stronzo, dai. Valerio. Dimmi, Valerio, dimmi. Niente, Morris a Roma, dai, provincia di Roma, Morris. Dai, Morris. Ma c'è o non c'è questo qua? C'è o non c'è? Niente, Francesco da Matera, dai. Pronto, Cruciani? Dimmi. Senti, io ho un dubbio che mi dovresti risolvere. Ma la storia del raccolta fondi là per la tua inciampettata, come è andata a finire? Ti roba vecchia, amico mio, non sono arrivate, non è arrivata nessuna raccolta vecchia, fondi. Mica tanto, non si è mai saputo un minimo. Ma tu sei, così tu sei così interessato al fatto che qualcuno mi inchiappetti? Ma certo, sarebbe il top, dai. Francesco, se qualcuno raccoglie, fa una raccolta, a parte che la raccolta non va bene, tu la dovresti pubblicizzare un IBAN. Io dove cazzo le verso 50 euro? Scusa. Ma quale IBAN? Ma, io no, ma no, così è troppo facile. Trovare qualche amico da fidarsi che non ti pregano i soldi che ti arrivano. Perché sei così appassionato a questa cosa? Mi sono... Perché? Sono troppo interessato da, un po' che... da che punto sono di vista sei interessato? Incuriosito, certe volte penso cazzo, se Parenzo chiedesse qualche 100.000 euro in più lo ingropperei io. A chi? Come hai detto, scusi, non chi ho è che ingropperesti? Non ho capito. Scusi. Te quello lì che ma perché tu hai delle ma perché no, tu hai non ho nessuna prestazione, però 50.000 mi andrebbero anche bene per questo servizio, per te. Cioè, non ho capito, tu verseresti 50.000 euro? No, spiegami bene. Spiegami bene, fai finta di non capire. No, tu non ho capito. Tu quanto volevi per essere inchiappettato? 200.000, roba di qualche 200.000. Mese fa. 200.000, sì. Io vorrei 50.000 per inchiappettarti. Ma chi te le dà 50.000? Ma che bella conversazione. Ma nella raccolta fondi, scusa, invece di chiedere 200.000, chiedi 250 e facciamo tu un campo pure io, dai. Vabbè, ma no, siamo, hai, hai bisogno dei soldi? Hai bisogno di soldi? No, bisogno proprio no, però non farebbero male, dai. Cioè, fortunatamente, vuoi, attraverso questa trasmissione vuoi dire mettete 50.000 euro in più e me ne incarico io. Ma perché dovrei scegliere proprio te poi? Spiegami. Vabbè, quella è una cosa, poi se non ti piaccio mi metterei da parte, non è che non sarebbe un problema, però come sei magro? Come sei? Sono bellissimo, sono una statua. Sei una statua, cioè sei un po' grassoccio o no? Sei sovrappeso o no? No, sono quasi 50 anni, ma li porto benissimo. Li porti bene. Sì. Questo dice lui. Beh, lo dice lui. Se lo auto dice. Vabbè, Diana da Roma, dai, Diana. Francesco, vedremo. Diana da Roma, dai. Diana? Diana? Niente. Adriano da Lucca, dai. Adriano? Ah, regà, è Namo. Andrea da Cagliari, dai, forza, Andrea. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ma Parenzo fa audience? Non so, dai ragazzi, non mi fate domande stupide stasera prima che mi incazzo. Dai, Andrea, dimmi, dai. Perché si mette sempre sopra alla voce di quello che parla. Ma non ti preoccupare, o ascolta, se ti piace bene, se non ti piace spegni, non ci rompere i coglioni. Qual è il punto? Che cosa mi vuoi dire? Dimmi. Il punto che secondo me te la basta l'audience. Vabbè, Valerio dalla provincia di Roma, hai rotto il cazzo, dai. Valerio, dai. Valerio. Pronto, ciao Luciani. Dimmi. Ti devo dire, io praticamente credo di aver capito le intenzioni del nostro governo, intenzioni del nostro finalmente. Finalmente c'è qualcuno finalmente che ci dice, che fa chiarezza, qualcuno che avanti, ci dice quali sono le intenzioni del nostro governo. Ovviamente è una battuta. Quello che dicevo, io ho 31 anni, sono italiano, sì. E lavoro qui in Italia. E allora? Secondo me loro vogliono solamente persone non in grado di... Ma loro di, chi? Le autorità su, ma le autorità quali autorità fa? Di cosa le stai parlando? Governative. Ma che vuol dire, ma chi sono le autorità governative? Chi sono? Qualche volta c'è uno, qualche volta ce n'è un altro. Certo, quello che c'è in quel momento, quello che c'è in questo allora momento. Cosa voglio? Cioè Renzi, stai dicendo? Sì. Tutte, ma sai cosa? Non si capisce niente di quello che lei sta sostenendo. Tu non sai cosa dire, non sai cosa dire. La realtà è questa. Fammi finire di parlare allora. Ma non sai cosa dire, hai idee confuse. Le istituzioni che cosa vogliono fare? Ma le istituzioni quali? Loro si vogliono tenere. Oh, le istituzioni, quello che ti propone l'APE, quelli che ti propongono il prestito vitalizio, ipotecario, coloro che ti propongono queste cose qui. Boh. Allora sto parlando. Le istituzioni, vabbè, allora facciamo finta che noi trentenni, ovviamente, non io. Sì. Che sono un po' più svegli del settantenne, ottantenne, quindi non ci possono venire a noi a proporre delle obbligazioni subordinate. Ma di che stai parlando? Di cosa parli? Come di che sto parlando? Di cosa stai parlando concretamente? Di cosa stai parlando? Allora, concretamente, lo te lo spiego subito. Concretamente, praticamente noi trentenni che ci mandano tutti fuori. Mo lo manda a fare in culo? Adesso lo manda a fare in culo? Adesso lo manda a fare in culo? Adesso lo manda a fare in culo? Perché non si capisce niente, amico mio? Davvero? Noi, ma perché noi trentenni? Perché noi divento pazzo quando uno dice noi? Ma non è noi cosa? Io conosco trentenni, alcuni fanno i tossicodipendenti, altri fanno i manager, altri fanno i camerieri, altri fanno i... Ma noi chi non rappresenti nessuno? Tu sei Valerio dalla provincia di Roma, non rappresenti nessuno. Rappresenti te come io, rappresento solo me stesso. Però io credo che di aver capito il motivo perché loro si vogliono tenere gli arciani, gli stranieri, gli immigrati, perché li girano come gli pare, come pedalini. Immigrati, gli anziani, gli immigrati, gli anziani. A noi non ci girano come pedalini. Ma noi chi? Noi io chi? Lo mando a fanculo a Renzi. Un Renzi mi propone un prestito vitalizio precario. Io lo mando a fare in culo. Parenzo, per favore, pensaci tu. Per favore, scusi. Non sono in grado, a un certo punto non sono più in grado, ti giuro. Non sono più in grado. Mi dia retta. Non sono più in grado. Mi dia retta. Mi dia retta. Ecco, appunto, ci sarà un motivo, mi dia retta. Propongo, non proponi niente. Mi dia non retta un attimo, mi dia retta. Sono adesso le 19:44, sì, no? Esatto. Lei ha una sto fidanzata? Sto ancora a lavorare. Sta al lavoro. Ha una fidanzata, sì. Qualcuno che l'aspetta a casa, una gallina, sì, un cane? Sì, sì, ho pure un figlio, sì. Benissimo. Allora lei adesso quando torna? Mi dia retta. Mi dia retta, è venerdì. Ha avuto una settimana terribile. Lei torni a casa adesso quando ha finito di lavorare, con calma. Sua moglie le avrebbe preparato una minestrina, una pasta al burro. Fermati, sì. Parla di tua moglie, non di mia moglie, ok? No, dico qua, parla chi... di tua moglie, quello che ti stavo dicendo io. Era chi c'è a casa? Ma non hai detto nulla. Che affetto che la può coccolare. Ma non hai detto niente, da tre minuti non dici nulla, il nulla totale. No. Cioè, non mi fa parlare. Ma hai parlato tantissimo, hai parlato. Secondo me, le istituzioni, noi gli diamo fastidio. Anzi, noi, gli dai fastidio. Tu non gli dai fastidio, non dai fastidio a nessuno. Perché non li possono fregare. Che allora lavoro fai? Che lavoro fai tu? Che lavoro fai? Io sono imprenditore. Di che? Di te stesso? Cosa che imprende? Cosa imprende lei? Di che cosa fai da imprenditore? Adesso non esageriamo, sei imprenditore, va benissimo. Di cosa? Uno fa tutto. Io faccio l'imprenditore, poi alla fine uno... Materie rinnovabili. Di materie rinnovabili. Energie rinnovabili. Ma imprenditore di che? Di sto cazzo? Vabbè, imprenditore, sarà imprenditore, cosa fa vendere? Dai, su. Ma che imprenditore, ma dai, su. Ma una vita felice lei comunque, sì. Ma dai, su, ma quale imprenditore di energie rinnovabili? Di che stiamo parlando? Tenti di fare un qualcosa sulle energie rinnovabili, diciamo. Imprenditore. Ma non è il lavoro mio, io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa io. Loro queste cose qui le vanno a proporre solamente ma loro chi? Ma non esiste il loro. La sai l'ultima era una rubrica della settimana scorsa. Sì, esatto. A pagare anche un'assicurazione in più, perché mo c'è reato d'omicidio stradale, quindi devi coprirti anche in caso tu uccidi qualcuno. E siamo arrivati all'omicidio stradale. Ma come si arriva all'omicidio stradale? No, le istituzioni sempre hanno basta! Basta, non ne posso più! Vai a casa, via! Vai da tua moglie, vai a casa tua, da tuo figlio, vai a mangiare, non ci rompere le balle, vai. Cruciani, hai rotto il cazzo, sei diventato vecchio e noioso, fuori dai coglioni. La Zanzara. Oh, voglio farti ascoltare prima di un ospite che sta arrivando, caro David, tuo amico Fabrizio Rondolino. Andiamo, diciamo, dal popolo fino agli intellettuali in questa trasmissione. Rondolino, il quale ne ha detti tutti i colori a favore di De Luca, a favore del signor De Luca. Sentiamo. De Luca perché è un baluardo contro la criminalità? Perché De Luca, diversamente da tutto il fighettume antimafia, anticamorra che firma appelli, sventola agende rosse e fa cortei con fiaccole animate da ottimi sentimenti, De Luca crea lavoro, sviluppo e crescita e benessere. Capito? Accusato da tutti, voto di scambio, camorra, una vergogna, la politica, i soldi in cambio, Renzi e De Luca accusati di scambiate il referendum con i soldi che fate arrivare in Campania. Rondolino dice un baluardo contro la criminalità. Il consenso lo si organizza promettendo cose da fare. Perché mai noi dovremmo votare uno se non perché ci fa qualche cosa? C'è qualche altro motivo? Perché è bello? Perché ha un bel sorriso? Perché siamo comunisti, fascisti, leghisti? No, votiamo qualcuno perché ci farà l'acquedotto, ci farà la scuola nuova, ci farà il... Signor Rondolino non sono molto d'accordo, ma gli voglio bene, molto. Allora ragazzi, abbiamo con noi Marina Ripa di Meana. Buonasera, buonasera. Buonasera. Vabbè raga, ma dai, oggi ma che c'è di strano oggi che non funziona un cazzo? Marina, ma mi sentite? Ma sì, mi sentite? Sì, sì, sì, ti sentiamo, sì, ti sentiamo. Che c'è, che te era successo? Ti è caduto il telefono? Che è successo? Mi sentite sì o no? Ti sì, sentiamo, cara. Ti sentiamo, sì, cara. Senti, ma senti una cosa. Come stai, adesso cara? Io tutto non bene? Non voglio sentire da te nessuna critica al mio modo di parlare, alle domande che faccio, dopo quello che ho letto su Moravia. Non voglio sentire più niente, cara Marina, nulla, non voglio. A tu pensi che io ti darò retta? No, amica mia, no, io ti adoro, lo sai, però siccome tu ogni tanto mi critichi, ah, ma che domande pecorecce, certo, ma che domande scabrose che fai, non si fanno queste domande. No, caro, non userei mai il termine scabroso, uso pecorecce. Pecorecce. Ho capito, amica mia, ma, però, quello che abbiamo letto tra te e il signor Moravia, cara. D'accordo, pecorecce, capito, d'accordo. Però dopo che una racconta, scusa, dopo che una racconta che il signor Moravia, che il signor Moravia, Alberto Moravia, grande scrittore, la noia, prende intellettuale, prende la mano della qui presente signora Marina Ripa di Meana. Se la mette sul... Sapevo che andavate subito a quel punto. Se la mette su tu. Libro. Se la mette sul pacco, la prima cosa che avete notato, ma a quel punto lì, se la mette sul pacco e dice: lo senti quanto è duro? Ma come, ma il signor Moravia, il signor Moravia, adesso io non voglio sentire. Se io ti chiedo, Alberto, scusami, ma il tuo pube ha i peli oppure è liscio? Non voglio sentire nulla, non voglio sentire nessuna critica. C'è una bella differenza, mio caro. E perché? Questa è pura verità, l'altra è fantasia tua. No, questa è una domanda. La verità, appunto, dire... domanda che dettata dalla tua fantasia, mentre l'altra è pura nuda, appunto, verità. Ma l'hai raccontato tu che il signor Moravia, certo, ha preso la sua mano, tu hai preso la sua mano, lui ha messo. Quello è un grande, no, aspetta, mi sto confondendo tra mani, cose, no, raccontiamo, mani, l'episodio raccontato, racconta nel l'episodio libro. Appunto, no, Marina, racconta. L'episodio è che io l'avevo invitato prima di tutto premettiamo che stiamo parlando di un libro che si chiama Colazione al Grand Hotel. Questo bisogna dirlo, comprate, tu comprate tutti questo libro. Marchetta utile. Parise e la mia Roma perduta. Va bene, d'accordo, questa fa una marchetta. Un va bene, sì, allora facciamola completa, dai, facciamola, allora, completa. Quanto costa il libro? 19 euro. Ma chi se ne frega? Spendeteli, 19 euro possono essere ben investiti. Se volete sapere cosa faceva Moravia con la sua mano, con la mano. Vabbè, allora qual è l'episodio, Marina? Dimmi. L'episodio è che avevo chiamato, coinvolto Alberto per andare a aiutare il pittore Mario Schifano, che in quei giorni era finita in galera per detenzione di cocaina. Eh beh, sì, insomma, si sa che non era, faceva abuso di allora cocaina. Allora io avevo pregato di andare dall'avvocato Gatti, famosa penalista, sì, tutti che abitava via Condotti, in particolare, che forse ricordo, morto ormai, sì, morto. Però tutti morti, che... bello che sono tutti morti, mamma tutti mia, tutti tranne te, per carità, noi vogliamo che tu viva per l'eternità, però comunque tutti morti. Bene, allora ecco, e andai dall'avvocato. Beh, mi ricordo che c'era, scendevo le scale e incontrai Isabella Rossellini, potete morta, chiederglielo, ecco. Ah, no, ecco, sempre poveracci incontrare, andare a casa, andare dall'avvocato Gatti, scendeva le scale, ci siamo fermati a chiacchierare con Isabella. Avvocati, beh, attrici, cose. Ma allora, poveraccio della Fiommai, comunque. Allora, vabbè, cosa è successo? Che lui prima l'ho pregato, dice: vieni a casa mia, c'è questo problema, dobbiamo salvare Mario. Sì. Detto anche il Puma, lo chiamavano il Puma. Signor Puma, signor Schifano, noto. Cocainomane. Grande artista, sì, sicuramente grande artista. No, grandissimo artista, però pippava più di una aspirapolvere, ragazzi miei. Giustamente, come l'ha dannato, tirava come ma non aspirapolvere, è vero, anche tu, anche tu all'epoca qualcosa facevi, no? No, sbaglio. No, lei non credo. No, mai, mai, no, fa, mai, sono sana di natura, sono mai, proprio... mai dato una tirata alla di cocaina, qualche canna magari, una tirata l'hai fatta, ma pure quello te, quello chi non l'ha fatto, però non beh, sono mai io, io non l'ho fatta, fatto, per esempio, giuro, ma può sembrare strano, ma io canne sì, canne ne ho fatte. Sì, scusa. Se fate cacciare, gli ascoltatori non capiscono. Hai ragione. Hai ragione. Allora io ho chiamato Moravia, gli ho detto: morto, guarda, vieni a casa che parliamo di questa cosa. Sì. Lui è venuto, ci siamo seduti sul divano di casa nostra, sì, lui, una accanto all'altra con Alberto. Sì. E Alberto gli spiegavo questa situazione: dobbiamo andare da cosa, salvare la ricorsa. Mentre io spiegavo questa cosa, lui ha messo la sua mano sui pantaloni e ha detto: vedi Marina quanto è duro? Senti ma perché? Quanto è duro. Ma che roba è? Perché era duro? Perché era... Ho capito, però... questo è interessante perché c'è un passo in più rispetto alla cosa che sappiamo. Sì. Cioè, elemento in più. Eravamo rimasti alla domanda, sì. No? Alla domanda che lui ha fatto. Vedi quindi quanto Moravia è duro. Hai dotato questo sta aspetta, dicendo lei. Vedi quanto è duro. Tu confermi, era duro? Certo, era duro. Era duro. Quanto io duro? Mi ha preso la mano e me l'ha messa sopra il duronico. Ma quant'era? Quanti anni aveva all'epoca Moravia, scusami? Beh, io ce ne avevo 25, lui ce ne avrà avuti 60. Dunque, 60 ancora, diciamo, alla vista di Marina Di Padimana diveniva duro, questo è il punto fondamentale. Evidentemente, mentre io parlavo... Ma com'era, dotato, signor Moravia? Ma io non lo so, non siamo andati oltre poi, io mi sono un vabbè, po'... l'impressione iniziale, col tocco del palo. L'impressione dal tocco sembrava ben dotato, ben certo. Dotato, signor Moravia, sì, ma il problema questo. Non è quello, ma perché di un libro... La cosa che prima perché? Notate... è normale. Hai se tu racconti, tu, Marina, se tu racconti che signor Moravia, mentre tu volevi parlare di un signore che stava magari per morire, certo. Che si faceva di cocaina dalla mattina alla sera, chiedevi aiuto a Moravia per questo e quello, non gliene fregava una stramaledetta mazza, esatto. Ti prende la mano, te la mette sul pacco e ti dice: capirai. Lo senti, Marina, quanto è duro? E tu hai detto: però sì. Dopo lui mi ha anche aiutato, ha salvato Mario. Vabbè, siamo... in quel momento, ma tu poi la cosa non è andata oltre. Ma il perché il fine giustifica i mezzi, no? Ma non ho capito, dice... perché non siete andati oltre? Cioè, c'era tuo marito perché... accanto? Che è successo? No, non c'era motivo, ma sai, a me piacevano molti bei ragazzi. Lui era per me, agli occhi di una 25enne. Beh, ragazzo, c'era 60 anziano. Anni, c'aveva. Ah, ho sì, capito. Era un signore anziano. Ah, ti piacevano ancora? Belli, hai tanti, e giovani. Mai piaciuti i grandi. Ottimo. Allora, aspetta un attimo che c'è la pubblicità. Comprate tutti questo meraviglioso libro della signora Marina Ripadimeana. Non vorremmo mai che finisse. Ma perché deve finire? Non deve finire per niente. Zanzara, Uakbar, Zanzara, Uakbar. La zanzara. Cruciani, quando ti sei arrapato a sentire la trentenne russa al telefono, è per fortuna che ti chiamano più uomini che donne, altrimenti sarebbe un programma da erezione continua la zanzara. Non ricordo l'episodio, però andiamo avanti, Parezzo, mentre tutti discutono di referendum, sì, no, cose cosa di questo tipo. Cosa voterà la signora Marina Ripadimeana? Ma non lo so cosa voterà. Dov'è? Marina, come voterà il referendum? Beh, l'ho detto, l'ho scritto sul voterò, cioè, naturalmente no. Naturalmente no, non è che è obbligatorio votare no. Non è che abbiamo letto. Non è che sia obbligatorio. Perché voterai no? Spiegami, non ho capito perché questa cosa. Beh, voterò no perché non ho una particolare antipatia per Renzi, prima di tutto, e poi perché non sono d'accordo che la Costituzione vada cambiata così di punto in bianco. La Costituzione è una cosa che è stata aggiornata, aggiornare un conto, ma cambiarla continuamente. No, aggiornata è stata già aggiornata. Comunque ti sta sulle palle Renzi, questa ti sta sulle palle Renzi. No, quello anche, però insomma poi non è un bel uomo? Di quelli che diventano da sindaci possono diventare senatori. No, tutta quella roba non mi piace. Non ti piace? Non ti piace. Per quello che ci ho capito voterò no. No. Ma quanti articoli ha la Costituzione? Lo sai, la nostra Costituzione quanti articoli ha? Non lo sai. 1250. Ma no, ma che dice? Ma no, ma dai. Che quello è sul numero di... è più facile sia il numero degli uomini che hai avuto in vita tua, 1250. Secondo me di più. Sai come ti chiamava zio Mughini? Sì, come mi chiamava? Di professione troia. Così ha detto. Sì, carino, molto amico. Scrisse un articolo meraviglioso per il Foglio tanti anni fa. No, ma lo diceva in senso positivo, non negativo. Lo diceva in senso positivo, il cui titolo era esattamente questo. Professione questa, vabbè. Professione troia. Beh. Devo dire che non è l'aggettivo esatto, perché io sono stata una ragazza indomita e molto vivace. Beh, indomita. Però è un bel termine, però. Ma no, però non è sbagliato una come donna termine. Straordinaria, Marina, indomita, perché ha avuto anche a fianco un marito straordinario che... Ecco, appunto, e poi siccome non mi sono fatta mancare nulla, so anche un matrimonio riuscito. fino a una certa età non mi sono fatta mancare nulla, poi sono diventata una moglie fedelissima. Beh, allora diciamo che moglie fedelissima, brava, negli ultimi tempi, prima quando potevi, a voglia corna. Beh, ma anche lui se l'ha divertito, Carletto. Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Questa è la leggenda che vi siete fatti. Beh, voi, ma Carletto, anche Carletto riba. Ma è giusto, è un bel rapporto in cui ognuno faceva quello è che voleva. È una coppia aperta la vostra, coppia aperta, dai, meraviglioso, coppia va bene. Aperta, vabbè, se vi piace di più, diciamo coppia aperta. Comunque, lo so, a me non piace. Comunque, la guarda bella, che la parola troia. È una coppia che comunque ancora oggi, a 35 anni di matrimonio, non c'è dubbio, si vuole bene. Senti, comunque, cara Marina, auguro a tutti di avere un marito così. Bravo, cara Marina, bravo, io vorrei dirti una cosa. Un la parola... signore, Carlo Riba di Meana, veramente un signore. La parola troia, secondo me, non deve essere considerata una cosa negativa. Ma di fatti non è negativa, di fatti. Cioè, tu ti senti un po' troia dentro. Beh, lo sono stata, sì. Lo ma sei non stata, una gran troia. Ma che dite? Ma sì, ma è giusto. Sì. Ma cioè, è giusto. Ma se uno lo dice in senso negativo, non va bene. Ma se uno lo dice positivamente, sì. Sono stata una grande troia, ma va bene. Come? Nel senso che sono stata molto... letta di gamba, sì. Quello sì, che ti piaceva, dai, su. Certo, come certo, non si dice però, come certo. Ti piacevano gli uomini, io ti potrei dire, te lo puoi dire sì. In maniera molto più greve, ma non te però, lo dico. No, ragazzi, oggi, le ragazze di oggi sono molto più... Io sono una vergine, una verginella in confronto alla generazione di può oggi. Essere, può essere, sì, a può essere. A 12 anni, per cui... Può essere, può essere. Per cui non 12 anni, speriamo di no. Senti, io voglio capire una cosa. Qual è stato, a proposito di cose dure di cui parlavamo prima, no? Cioè, l'uomo che hai avuto più dotato, chi è stato? Cioè, si può dire, si può, signor Craxi, per esempio, che ne so. Ma che cosa state dicendo? Non so, ma state? Sta dicendo lui, io non dico niente. Esilarante del libro, tipo sì. Quello sì. Di quando incontro... la signora Morante in piazza. Ma Elsa Morante. Tutti morti, capito? Tutta gente morta. Cioè. Ma oltre a tutta gente, tutti intellettuali. La più grande scrittrice di sì, questo. Sì, non c'è dubbio quello. Se per esempio Sgarbi ha letto, com'era? Signor Sgarbi. Ma per carità, non parliamo proprio di queste cose. Zero proprio. Proprio, sì. Zero. Cioè non gli funzionava proprio, zero. Ma non voglio entrare in ma non vuoi entrare, hai parlato del pisello duro di cosa, del pisello duro di Moravia, guarda che sì, sei incredibile. Che abbiamo una bella differenza tra Moravia e Sgarbi. Appunto dico, per questo ti dico. Sì, però ha ragione Marina, cioè il tocco è elegante. Allora, anche se ha parlato di questo episodio di Moravia, però lo ha fatto in modo elegante, beh, non modo greve. Elegante, ma amico mio, a mano sul pacco, che era duro. No, ha ragione Marina, ha ragione Marina. Ci sono persone che capiscono, cioè, meno male. Comunque, quella scusa, mano il rapporto sessuale più bello della tua vita, con chi è stato? È il rapporto elegante. Sessuale più bello della tua vita, con chi è stato? Più importante della mia vita è stato con Franco Angeli, ma anche il più distruttivo. Signor Franco Angeli, quella più... la diciamo la trombata amore più bella. Amore e morte, amore e morte. Eros e Thanatos, Eros e Thanatos. È vero che a casa tua c'è una grande puzza di gatti? C'è una puzza tremenda? Ho letto da qualche parte. Sì, terribile, perché i cani la fanno dappertutto. Quanti cani non hai? Non si può entrare, quattro. Quattro Carlini. Gatti pure? Pure gatti? Pure i gatti ci sono? No, gatti no, ma i cani... Cioè c'è una puzza incredibile. Chi entra a casa tua sente una puzza terribile. Sì, non ci vuol venire più nessuno. Per quello vado sempre in televisione. Chiama qualche immigrato. Io sono andato a colazione a casa di chiama a qualche casa immigrato, di Marina. Immigrato. C'è un giardino meraviglioso, Marina. Sono andato a colazione a casa sua. Bellissimo. Invito solo d'estate perché il giardino non bellissimo. Si sente la puzza. Invita qualche giardino meraviglioso e poi ha dei cappelli però... che ha disegnato lei straordinari che abbiamo visto insieme una volta che sono e stato a colazione a casa sua. Che... Si mangia molto bene, anche molto light. Carissimo, però c'è da, sì, bellissimo. C'è da dire che cosa? Meraviglioso. No, c'è da dire che la presenza di questi cani, che si fanno canetti, che sono veramente delle creature meravigliose. I Carlini, sì. In casa mia sono sempre, la casa mia c'è sempre allegria. C'è sempre allegria. È vero. Voi, c'è una puzza di merda, però comunque. No, non è vero, c'è opere d'arte meravigliose. Ma quella ce la teniamo, tutto si può avere. Senti, ma tu quante volte ti cambi le mutande? Ma che dici? Ma come ti viene? No, perché c'è stato un dibattito. Pensa le tue. Io me ne cambio poche volte. Fa schifo, Cruciani. Una volta ogni 3 giorni, per questo te lo chiedo. Sicuro che ho dei profumi al mio corpo, un profumo idilliaco. Dunque ti cambi ogni giorno le mutande praticamente. Ma vabbè, dai. Ma no, ma... Pecoreccio no, volgare. Ma questo, ma no, ma scusa, ti ho chiesto semplicemente ragione, quante volte, una ma volta al giorno, due volte al giorno, ma tre volte al giorno. Ma no, mi vengono così naturali. Vabbè. Vengono estemporanee, ma come ti viene? Comunque io ospiterei in questa casa tua ospiterei qualche immigrato, qualche rom. No, ma perché? Sì, ma tu Ma tu lo sai che mi hanno chiamato una volta per dirmi che uno scherzo mi hanno fatto, forse eravate voi. Che scherzo mi hanno fatto. Mi hanno detto che signora Marina, sa, lei è così simpatica, buona, così generosa, cioè, lei potrebbe prendere dei ragazzi che sono proprio distuperati in casa. Io ci ho creduto. E allora sai come ho risposto? Mi piacerebbe tanto, ma purtroppo ho la cagna in calore. C'hai la cagna È possibile. Ciao Marina, ciao cara. Ah, ragazzi. Diana Roma, vai. Pronto? Dimmi Diana, dimmi. Vi volevo raccontare una delle storie più romantiche della mia vita. Qual è? Ammesso che te ne freghi qualcosa. No, dipende, tra me e un papero. Te e un papero, sì, vai, prego, sì. Per carità, abbiamo sentito di tutto qua, no? La storia di Praticamente qualche anno fa sono stata a Porta Portese, ho preso, sai, quelle ceste con tutti quegli anatroccoli. No, ma lo stai dicendo, ma anatroccoli vivi? Certo. Sì, allora? Vabbè, vendevano queste paperelle, no? Sì. Dunque? E me ne sono portata a casa una. Vabbè, questo è cresciuto, è diventato un bellissimo papero, peperone si chiamava. Sì. Io quando tornavo a casa la sera mi mettevo sdraiata in giardino e lui mi saliva sul petto Poi? E mi dava tutti dei baci, no? Sul collo. Sì. Tra il collo e i capelli, mi dava tutti i morsetti. Era una cosa meravigliosa, secondo me. Sì. Quindi non ci vedo niente di strano. Ah, va bene, ma la papera, per carità. Cioè, no, un papero. Un papero. Cioè, pure il papero ci vuole. Ti sei praticamente innamorata di un papero, questo è il punto. Ah, eravamo follemente innamorati. Cioè, lei in quel momento eri fidanzata, avevi un uomo, un maschio, un fidanzato, eccetera. Che c'entra? No, ma per dire, c'è cioè una domanda, non ho detto che tu l'hai sostituito con no, il papero. No, però era comunque uno degli affetti più grandi che ho avuto nella vita. Ma ragazzi, ma nessuno, ognuno può fare quello che vuole. No, può scendersi... come dicevi che mi dico con la papera, con la gallina, ciao, buonasera, ma meglio parlare con un papero con cui ti coccoli, c'è un rapporto idillia. No, parlare no, guarda, mio. Amica mia, parlare no, magari uno può sorridere. Chiacchierare, no. Ma chiacchierare cosa che non parlano? Ci dicevamo delle cose. Ma perché che dicevate nella tua mente? Perché non l'hai trovato. Ma dai, su. Cioè, piuttosto che dire ai quattro sfigati che fai te a Natale, dove vai? Meglio parlare con la papera, meglio parlare col papero. Ma mille volte, a parte che tornavo a casa e lui mi aspettava il cancello. È un'illusione, è un'illusione. Vedete un film in televisione, vedete una serie, un DVD, che ne so, vai a dormire, ma piuttosto che parlare col papero, dai. Ma su. Perché? Meglio il papero che tante altre cose. Ma guardi, ma ognuno ha le sue cose. Ma per comunque, carità, per carità, non è un crimine, faccia quello che le pare. Ah, Adriano, Luca, ciao, Diana, ciao. Adriano, Luca. Sì, a proposito di paperi e di galline, volevo dire. Che succede? Niente di particolare, io sono fatto il medico di pronto soccorso per diversi anni in qualche sperduto paesino della Toscana. Sì. E mi è capitato di dover ricoverare un soggetto piuttosto anziano in buona condizione mentale, sì, il quale rifiutava ricovero perché viveva con una gallina e era affezionatissimo a questa gallina. Cioè, rifiutavano i ricoveri perché volevano tornare a casa dalle loro galline? Certo, dalla sua gallina. Dalla sua gallina. Vabbè, ma ragazzi, ma ognuno si può affezionare a quello che vuole. Se uno si affeziona a una gallina, non mi direte che è normale. Però. Non mi dite che è normale. Non mi dite che è normale affezionarsi a una gallina. Non è normale. Per carità, io sono una persona anormalissima. Però lo ammetto, però non mi dite è normale. Io mi affeziono a una gallina come mi posso affezionare a un essere umano. Non è normale neanche la Troia, la seconda carica istituzionale ma quello che c'entra Stato, sono cose diverse no, quelle sono cose diverse però piuttosto sarebbe meglio dare della figlia di Maria alla Rosi Bindi, voglio dire con tutti i significati che può avere, no? Che vuol dire, scusa? Non ho capito cosa vuol dire, mi sa di volgarità. Io volevo dare della figlia di Maria a Rosi Bindi. In che senso figlia di Maria? Spiegami, non ho capito. Figlia di Maria? Figlia di Maria sarebbe dire... È come dire figlia di puttana, non ho capito. Nella tua testa, una testa come vuole, voglio dire, una che però è stata attaccata alla democrazia cristiana come nostra. Ma che c'entra adesso? Non lei è passato dalle galline, dai vecchi che dormono con le galline e non si vogliono separare, a Rosi Bindi. Lei ha fatto il medico al pronto. Lei ha fatto il medico al pronto. Però non c'entra niente. Però l'intervento era per dire che fondamentalmente, oltre che al discorso se una gallina può far compagnia, no? Lorenzo, pensaci tu, ti prego. Pensaci tu, Parenzo, vieni. Diamo no, cosa vuoi pensare? A me sono un uomo solo, questo qua. È un uomo solo, Adriano, secondo me. Un uomo solo. A me sembra noi gli facciamo anche, credo che gli facciamo anche compagnia, no, Adriano? Certo, cari. Facciamo dunque, io ho un po' di difficoltà ad attaccarti perché dovrei chiamare ambulanze, cose. Tu sei passato praticamente dalle galline, appunto, siamo passati dalle galline a Rosy Bindi. Dunque, ti abbraccio fortissimo e ti saluto. Ciao, ciao. Viva il grande, come dici tu, il più grande governatore del mondo, De Luca. Vabbè. E poi denunciamo. Non si vuole staccare, proprio, cioè non vuole andare via. Capito? Denunciamo che non si vuole staccare, si affezionato. In qualche maniera facciamo un ternare, perché ma quello chi? Proprio quello di vino c'ha solo il vino, voglio dire. Il divino, stai parlando del divino. Ciao, ciao, ciao, ciao. A me questa fogna piace ogni giorno di più. La zanzara. Parenzo Morala, Parenzo Morala, vota Parenzo Morala, Parenzo a Padova. Parenzo, la maggioranza silenziosa ti sostiene anche dalla provincia di Verona. Siamo qua in una riunione e siamo pronti per votarti, Parenzo sindaco. Sono una studentessa iscritta al quarto anno alla Sorbona. Faccio parte della maggioranza silenziosa, ma soprattutto, da qualche mese a questa parte, sto studiando il rumeno. Spero di poter far parte della tua squadra per le prossime elezioni a Padova. E comunque, vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo. Grande rete in tutta la città, partiamo dalle periferie, silenziosi. Padova libera, aperta all'Europa, al mondo, hashtag Parenzo sindaco. Padova ha bisogno di rinascere come città perché è stata divisa. C'è una Italia bella, ma non radical chic, snob, come dici tu, di tutto. Andiamo a casa, mettiamoci ai gazebi, casa per casa, strada per strada, e lavoriamo per riscattare questo paese. Ragazzi, siete tanti, lo so, ma ce la faremo, riconquisteremo questa città. Il silenzio assordante sta venendo fuori. Dorato. Siamo qui a dire ricostruiremo Padova. Ed ora Donald Traffico. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Pronto? Pronto? Direttore? Sì, pronto. Direttore? Sì. Che succede? Allora... Emilio, che succede, Emilio? Succede che... Ma hai chiamato prima, diciamo, distrutto, sì, ma hai chiamato... Distrutto. Stavo dicendo di aver scoperto una cosa... Che hai scoperto? Fa, che fanno hackeraggio per quanto riguarda il voto, sì o no? In che senso fanno hackeraggio? Nel senso che su Twitter, non che ci metto io, no... Soltanto che su Twitter, l'ho denunciato su Twitter e su Facebook. Ma hai denunciato cosa? Hai denunciato? Ho denunciato questo. Cioè che cosa? Emilio, accanto al mio nome, sì. Emilio Fede, parlo di Twitter. Emilio. Aspetta. Che è apparso accanto al tuo nome? Io vedo solo apparire denunzie, cose, processi, soldi, bancarotte, Leli Mora, milioni. Io vedo solo quello che hai fatto. Che hai fatto no, dimmi che è apparso, dimmi che è apparso. No, vabbè, se parliamo di Leli Mora siamo a posto. No, aspetta, dimmi. Accanto a Emilio Fede compare io voto no, punto, e poi un quadrettino, un quadrato dove compare no. Vuol dire che loro mettono accanto ad alcuni personaggi un l'accaraggio carissimo. Dire, un momento come questo. Ma che hanno ma non ho capito che, non cosa, ho mai... che cosa hanno messo? Io voto no, perché tu che voti, scusa? No, io no, guarda, non mi tirare dentro la polemica. Non mi tirare, ma non è che sei il Papa, cioè non sei il Papa. Non sono nessuno, non sono no, nessuno. No, sei Emilio Fede, accanto, per carità. È perfetto. Allora, accanto ad Emilio Fede, io che non ho mai espresso il voto, né intendo esprimerlo adesso, non so quando lo esprimerò, compare, io voto no, punto. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega, però, Emilio mio? Oh, sono Parenzo, ciao. Pronto? Sì, Emily? Sono senza parole. Ma di che sei senza parole? Ma scusa, ma c'è un hackeraggio in ma quale hackeraggio? Ma chi ha interesse a mettere Emilio Fede accanto a no? Ma è una cosa per ridere, per scherzare. Chi ha hackeraggio? Dai. Ma lo mettono accanto a me. Posso anche mettere accanto al tuo nome tu sei su Twitter. Vabbè, pazienza, metteranno accanto al mio nome, ho capito, non c'è niente di grave. Cioè, la cosa più grave è la cosa più grave è che sei stata rinviata a giudizio per i soldi che avresti sottratto al signor Lelemora, al signor Berlusconi, eccetera. Quello mi sembra grave. Scusami se te lo dico, se li hai presi, se veramente li hai presi. Ma io ci credo che tu non li abbia presi, per carità. Io ma ci dai, credo. Ma che devo prendere i soldi? A parte il fatto, scusa, questo ottiene un prestito generosamente da Berlusconi quando temeva il, come si chiama? Però, Emilio, scusami. Aspetta, fammi dire. Temeva? Quindi non era in bancarotta e lui gli ha fatto un prestito non so di quanto. Che senso aveva dare a me dei soldi quando non era in conto? Lo dice lui, che è un mentitore, Guarda, lui può dire tutto quello che gli pare, a me non interessa più questa vicenda. Ma è un figlio, come lo giudichi Lelemora? Un pezzo di merda, come lo giudichi? Un uomo che ha saputo fare l'imprenditore, ha saputo guadagnare tanti soldi e oggi riesce a mantenere un suo tenore di vita, anche se Dice che è morto di fame, dice che è morto di fame. Dice che Cianciano è morto di fame. È morto di fame? Dice lui, sì, certo, dice che è morto. E lo dice, certo, dice che non c'ha più un euro. Sarà morto di fame. Ma ho capito, ma questi soldi adesso non è il caso, scusami Emilio, siccome sei stato rinviato a giudizio su questa cosa qua, no? Allora io dico, no, non sarà il caso, una volta tanto, giusto Parenzo? Una volta tanto, facciamo una bella, cioè vuota il sacco una volta ogni tanto. Vuota il sacco, dai, dillo una volta, sì. A me sembrava che la cosa importante di oggi fosse lo strato di offesa alla democrazia. Ma qual è l'offesa alla democrazia? L'hackeraggio è attribuire ma quale hackeraggio, amico mio? Il voto. Ma Emilio mio, scusami, ma con tutti i problemi che ci sono, accuse di Festini, mi consenta Cruciani, ma lei crede che alla gente ancora cazzo gliene frega di Lelemora o di Emilio Fede? E allora confessa, ho preso dei quattrini dalla Lelemora, me li sono presi perché ne avevo bisogno, confessala questa cosa qua, dillo ai giudici, sì, ho portato... Ma se non l'ha fatta? Non lo so, se l'hai fatta, sempre se l'hai fatta. Io non avevo bisogno di prendere soldi a nessuno, perché ero trattato come si deve, un direttore... con tutti i vantaggi che si hanno, che i benefit e basta, non ho bisogno di prendere i soldi a nessuno. Non avevo bisogno. Il giorno in cui troveranno, attenzione, un euro in più di quello che era il dovuto. Cioè, allora, secondo l'accusa, avresti tenuto per sé 1.110.000. Ma sono giudici seri, non è che sono dei peracottari questi qua. Cazzabumboli. Mi hanno condannato. Dai. No, perché sembrano dei giudici seri, il dottor Fusco. Lo sono, ma te saresti intascato 1.100.000 di quelli del Berlusca, amico mio, secondo questi giudici, per carità. Una volta erano 400, poi 700, poi 900. Dice, poi si sarebbe tenuto per sé, si sarebbe tenuto per sé 1.100.000, allora, 110 senti, anzi. Senti Giuseppe, il giorno in cui si trova un euro in più di quello che è sempre stato chiaro e denunciato dei miei guadagni, io, guarda, faccio butti, qui la ti promessa ti lì. Butti no, dal Tevere, ti butti dal Tevere. No, a terra non mi punto. No, dal Tevere, ti suicidi, ti ammazzi. In questo momento lasciamo perdere i fiumi. In quel momento lì io dichiaro ufficialmente e giuro che mi dimetto da tutto. Ma da che ti devi dimettere? Ma sei già dimesso da tutto. Ma da che ti devi dimettere? Ormai. Ma che ti devi dimettere da che? Ti metto da qualunque. Ma non hai più nessun incarico, ma non c'è più nulla, per carità. Va bene, la gente è molto contenta che non ci sia più. Ho detto semplicemente dice dal momento in cui trovano solo un euro allora io mi dimetto, amico mio, t'hanno cacciato e non c'è più un cazzo da un po' di tempo, ma perché hanno pure sbagliato, però non ti devi dimettere da nulla, senti, guarda, a me comunque sto Lelemora come lo consideri, ma potresti cose che ha detto? Il direttore del Sole 24 Ore ad esempio, ma questo è buono, questa è una buona candidatura, questa è buona. Candidiamo le persone cacciate, leggevo oggi su Fatto Quotidiano hanno cacciato via un altro, come hanno cacciato via, ma perché non ti proponi a fare il direttore del Sole 24 Ore? Questo è buono, il Sole, bellissimo, è buono, io sono ancora un grande direttore. Potresti fare il direttore anche del Sole qui? No, io verrei, io lavorerei. No, lo potresti fare il direttore del Sole, sì o no? Beh, certo, no, non farei più il direttore. Non lo faresti, sì, vabbè, ormai è giusto. Ma non per questione di età. Lo farei perché ritengo... Ma perché ritengo che uno può fare il giornalista? Tu mica sei il direttore, eppure rompi coglione tutte le sere, raccogliendo insomma di milioni di persone. Ancora la gente ti rompe coglione? Con le telefonate? Con le telefonate ti rompono i coglioni? Sì, 67.000 mese scorso. 67.000 mese scorso. Sì, ma non frega niente a nessuno in questo paese, non frega niente a nessuno di me. Una roba incredibile questa cosa qua, è incredibile. 67.000, ma denunciate? Denunciate, tutti denunciati. Alla procura. alla Milano, sei a tutte le procure, sempre. Tu hai a che fare sempre con procure, dalla mattina alla sera, prima quelli che ti accusano, tu che porti accuse. Che passi più tempo in procura. C'hai i conti svizzero? Ce l'hai i conti svizzero o no? Ma se trovano un euro all'estero. No, ma ce l'hai i conti a Lugano, sì o no? Ce l'hai aperto qualche conto a Lugano? Non manco un conto aperto a Lugano. Vabbè, per carità, un contuccio. Tutti hanno. Chi non ha un conto aperto a Lugano è uno sfigato. Scusami, se te lo dico. Ragazzi, oggi. Oggi si può scoprire qualunque cosa. Ebbene, io invito chiunque. Vabbè, a il giudizio finale sull'Ele Mora: qual è? Un delinquente, un figlio di puttana, un paraculo, uno che ti vuole incastrare? È lui che dice che ti ha dato i soldi, mica io. Io dico all'Ele Mora. Che vuoi dire? Bisogna avere rispetto della verità. Della verità, vabbè. E lui non l'ha avuto. Far discorso da parte. Non l'ha avuto. Ciao, Emilio. Ciao, Emilio. Ciao. Ti saluto. Ciao. Guarda. Ciao, Emilio. Ciao. Comunque arrivano sempre telefonate incredibili al signor Fede, eh? E poi ce le mandano, è bello che ce le mandano, capito Parezzo? No, ce le mandano, ma non lo sto dicendo per fine. Arrivano migliaia di telefonate al perché giorno. Perché gli rompono le scatole, gli rompono i coglioni, gli rompono i coglioni. Comunque è incredibile come la gente abbia il suo ci sia il suo numero pazzesco, in giro effettivamente, pazzesco. Perché anch'io conosco tanta gente che dice: "No, ma il numero di Fede, c'ho il numero di Fede". Come fai? Una volta qualcuno l'ha pubblicato. Sì. Dei bastardi, capito? Non, ma guarda, prima penso quando hanno fatto perdere il telefono, sono i bastardi proprio. Direttore! Bello, delinquenti come pochi, ma veramente, parlavo oggi. Direttore! No, sì. Direttore! Lo canta. Accidenti, una cosa. Direttore! Direttore! Pronto? Direttore? Pronto? Con chi vuol parlare? Ha sbagliato il numero? Anche la bancarotta adesso, anche la bancarotta. Capito? Ecco, sì, questo. Ah no, quello lì adesso con questo lo prendo, lo registro. Questo. Anche la bancarotta. Anche. Senti, anche la bancarotta. Bastardo di merda e figlio di puttana. Perché reagisce così? Ma come non lo capisci? C'ha ragione. Ma se te ti rompessero le scatole come le rompono a lui ogni giorno, poverino, ma certo. Cambiasse numero. Cruciani, sei senza Dio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Gamma Suzuki 4x4 All Grip, a partire da 13.900 euro. Suzuki. La Zanzara. Ancora una puntata delle follie napolitane. Voglio fare assolutamente una rubrica, caro Parenzo, sulle follie napolitane. Che non sarebbero di napoletano il direttore? No, di napolitane, ecco. Di Napoli, provenienti da Napoli. A Napoli ho mangiato in un posto bellissimo tempo fa che si chiama Mimì alla Ferrovia. Devi fare pubblicità a questo ristorante? Pubblicità è vero, niente, non si può dire. Però il ristorante è buonissimo, Ma chi se ne frega? Qui stiamo parlando di un'altra cosa. Napoli, succede non è... solo. Però raccontiamo anche il bello delle cose. Sono delle cose bellissime, che c'entra? Ecco. C'è una trasmissione in cui mi voglio specializzare: la trasmissione di Carlo Alvino, del conduttore radiofonico tifoso del Napoli, Carlo Alvino, e un suo ascoltatore che si chiama Mimmo. Senti che cosa dice Mimmo. Quello che ha fatto Vasquez è la vergogna del calcio europeo e ne sta parlando tutta Europa tranne che in Italia. Qua solo non se ne parla. E in Italia non se ne parla, perché un giocatore di quel livello che si prende due cartellini in 5 minuti per lasciare la squadra un'ora in 10 solamente perché gliel'ha chiesto l'amico Dybala, se lo può risparmiare. Cioè, secondo questo genio, il giocatore del Siviglia che si è fatto espellere, Vasquez, lo ha fatto apposta a favore della Juventus perché glielo ha chiesto il suo amico Dybala, giocatore della Juventus infortunato, capito la malattia dove può arrivare. Poi ha da dire qualcosa anche sul fatto che la Juventus si sarebbe scelta un arbitro per domenica, arbitro per Genoa-Juventus. Senti, a Redrov gli avrei detto: è ospite a casa mia, le faccio vedere una giornata di calcio italiano dove un certo signore caccia Mazzoleno dalla valigia e lo mette a Genova Juventus. Magnifico, roba da sceneggiate, le facevano noi le sceneggiate. con un Genoa che c'è dimezzato, addirittura ha paura, letteralmente paura, e chiama Nicchi, mi dai Mazzoleni, e lo caccia nella valigia come Berlusconi cacciava l'anese. Uguale, identico e preciso. Certo. I sistemi non cambiano. E l'altro che dice, certo, è certo, come si sono scelti l'arbitro. È certo, Albino, amico mio, dai, solo a Napoli. Vabbè, una spruzzata di De Luca, dato che siamo in Campania. Sì. Allora, una spruzzata di De Luca che dice che la commissione antimafia segue il voto di scambio con la frittura di Alici e la ricerca del capitone. Bellissimo. La commissione antimafia che sta riflettendo sul rapporto fra voto di scambio e frittura di Alici. Io ho già comunicato che seguiremo con molto rispetto istituzionale la ricerca avviata dalla Commissione Antimafia. Potremmo dire, diciamo in termini letterari, la ricerca del capitone perduto. Ecco. È stupendo, è meraviglioso. Senti su Di Maio ancora. Torna su Di Maio. L'ultima che ha fatto Luigino, voi sapete che nel suo curriculum no, aveva preso, lo dovremmo aggiornare ogni 2-3 settimane, che lui si è presentato come ex muratore, fallito. Voleva fare il carpentiere, mancato. Steward allo Stadio San Paolo, licenziato. Poi si è autodefinito webmaster, credo esperto di web. Dopodiché apprendiamo per sua dichiarazione che non è stato in grado di leggere le mail che gli arrivavano da Parma, da Pizzarotti, da Palermo, da quelli che facevano le firme false, da Quarto, la sindaca di Quarto, da Roma. Gli mandavano le mail che lo informavano che c'erano indagati, ma lui non riusciva a leggere. Beh, questo è l'unico caso al mondo di un webmaster analfabeta digitale. È stupendo, è un genio. Ma un quando uno dice queste cose qua è assolto da qualsiasi reato possa avere commesso, anche il più turpe. Beh, tu dici che basta questo, ma per sì, assolverlo, ma a parte che fino adesso, scriminarlo, come fino adesso, a parte queste dichiarazioni fatte di clientelismo che chiaramente anche a me non piacciono, perché però basta queste cose qua per assolverlo da qualsiasi reato possibile immaginabile. E poi ha detto che fino al 14 dicembre farà, il giorno del referendum, farà training autogeno, cioè starà zitto, cioè training autogeno. Webmaster fino al 4 dicembre, training autogeno, autocontrollo, espiazione, mortificazione della carne e dello spirito. Ah, stupendo. Chi ha deciso di mortificare la carne ormai per sempre, abbandonando l'attività di prostituzione, incredibilmente, grande notizia di oggi, è la signora F. Ball. Buonasera. Buonasera a tutti. Come stai? Come stai, cara? Però poi doveva accadere. Io spero che veramente con questa decisione, con questa possibilità, riesco a togliermi dalla vita di prostituzione, avere una vita normale, più dignitosa. Finalmente riuscirò magari a pagare anche le tasse nel modo normale. Beh, questo non credo, però ci mancava il trans al giorno. Caro Efe, questo non credo. Cari ascoltatori, un trans al giorno toglie Cruciani di torno. In una settimana radiofonica, da lunedì al venerdì, come minimo ci deve essere un travolto. Assolutamente. Come minimo. Scusami, questa è la regola di base. Ho capito, però. Ho capito, ragazzi miei, però. Ho capito, ragazzi. Qualche volta un assaggio, un po' di felicità, un qualcosa di diverso. La signora Ball, programma. Adesso la signora Ball. F. Ball. Lei voterà al referendum, signora F. Ball? Ecco, ma chi se ne frega di cosa vota la trans? Questo giovedì, il 28, c'è anche una manifestazione di Lega Nord che voglio andarci, come fosse ma che c'entra? Ma se voterai al referendum io voterò tu? No, visto che andrò a manifestazione di Lega Nord, voterò ovviamente. Senti, no. Allora, però torniamo alla cosa principale. Dunque, la signora F. Ball. La signora F. Ball, come? Ah, com'è che fa? Com'è che fa? Perché vuole fare io la cantante? Sono in vendita. Mi è piaciuta moltissimo questa canzone che ho scoperto così caso. Viola Valentino. Di Viola Valentino. Cioè, tu vuoi lasciare il mondo della prostituzione. Partiamo dall'inizio, però, cioè, non facciamo confusione. È una notizia, meno male che la stai dando a borse chiuse, la notizia, perché è clamorosa proprio. Poter lasciare il mondo di prostituzione come ma una quando? In questi giorni c'era la possibilità che potevo partire per Isola dei Famosi. Questa canzone io canticchierò. No, però aspetta, andiamo in ordine. Andiamo con ordine. Okay. Scusa, non accavalliamo un sacco di cose. Vuoi che ti canto prima? No, aspetta, sennò poi i mercati esatto, vanno in fibrillazione. L'indice Nikkei potrebbe risentirne della cosa. Però scusa, Efe, allora partiamo dall'inizio. Dunque, tu vuoi lasciare. Dunque, la storia è questa: un non travone, vuoi più fare la zoppa. La notizia clamorosa per Cruciani è che un signore travone che per anni ha fatto la prostituta dicendo anche delle porcherie a questa radio, toccando porcherie pacchi in giro cosa? Qua. Non è vero. Ma mai ho detto delle porcherie. Improvvisamente, poi è stata della Lega. Cioè, oggi decide di abbandonare questa notizia clamorosa. Avevo la scheda di Lega. Sono state dentro la Lega. Parenzo, poi, non fare confusione però a quest'ora. La gente si confonde. Sta facendo confusione perché vuole dire che non gliene frega niente di sapere che Efe Ball lascia la prostituzione. Nulla. È una donna di spettacolo. È una donna di spettacolo che è stata protagonista di trasmissioni, eccetera. In eccetera. Questo momento sono la trans più conosciuta di Italia. Esatto. Una volta c'era Eurovision, non c'è più. Sì. Una volta avevamo Luxuria, purtroppo non c'è più. Beh, non c'è più. La parrucca. Morta. Sì, però quando vai in televisione mette la parrucca, non c'è nessuno che gli offrirà di cantare una canzone. Diciamo le verità. Cioè, la più sexy, la più scandalosa, la più chiacchierata, la più immediata. Purtroppo mi dispiace, Parenzo. È la signora Efe Ball. Leghista, signora Efe Ball. Allora, però vabbè. Quando è che vuoi lasciare il mondo della prostituzione? Quando è che vuoi finire di prenderlo in quel posto, di darlo? Questa canzone con la Viola. Quando? Quando vuoi finire di fare la prostituta? Gennaio. Sono ultimo un mese. Ultimi clienti, fine stagione. Ultimi saldi siamo. Il Black Friday della signora Ball. Il Black Friday ho fatto 3 anni fa, ho dimezzato i prezzi perché siccome durano tutti 10-15 minuti. Ma durano così poco? Inutile chiedere 200-300 euro. Perché durano così poco? Ma è cruciale, non so. Sia in Italia che in Turchia, che in America, che in Svizzera. Tutti gli uomini che vengono con me durano 10-15 minuti, non so. Ma vengono subito, che fanno? Mi pare un problema enorme. Sì, vengono sì, subito, esattamente. Subito. È un problema, perché tu aspetti chissà che cosa. Ma no, per te no, per te è meglio. Amazonico, alto 1,90, con un cazzone enorme, tac, eccola, dopo 2 minuti finito. Sempre dice, con dettagli, come? No? Non dettagli non li lascia intravedere. Oh, però scusami, per te è meglio, per te è meglio. Bisogna fare il secondo turno, ma purtroppo lì, siccome non scatto subito, loro vanno via, mi dispiace. Allora, facciamo una cosa, dunque tu il 15 gennaio, diamo una data definitiva, perché le borse... Sì, dal 15 gennaio... 15 gennaio, ultimo cliente, facciamo l'ultima giornata gratis? Ultima giornata gratis, soltanto con i dotati belli e muscolosi alti e mori. Bene, allora 15 gennaio, ultima giornata. Il piccolo pisello che non riescono neanche a trovare il buco. Vabbè, d'accordo, questo. Vabbè, adesso il dettaglio mi sembra influente. L'ultimo diciamo. Giorno posso divertirmi dopo tanto bravo, tempo. Bravo, bravissimo. Ecco. Poi venire anche tu, Cruciani. Sei ma beh, questo. Anche Parenzo, ma io perché ho altri gusti, cara. Dai, perché tu. Io le assicuro che mi occupo. Entrare nel mondo ma non facciamo entrare da nessuna parte. Non entriamo da nessuna parte. No? Io dai. Preferisco entrare da altre parti, signora mi mia cara. Siete molto democratico, ma non me ne frega nulla perché non viene a assaggiare anche una trans. Perché ha ragione signora perché Efe. Io preferisco entrare da altre parti. Positivo. No, scusi cara, sempre, ma non c'entra niente. Non visto vengo. Che tu non sei una leghista che odio gli omosessuali. Fatti un trans diciamo anche tu. Ragazzi miei, fatti un trans. Sei democratico, apriti a questo mondo. Apriti un corno. Io preferisco occuparmi di altre cose. Parenzo, lasciati andare a me, non ti preoccupare. Non ma non me ne frega nulla, non mi piace. Da cosa devo fare? Scusi. Fa tutto lei, fa tutto lei. Ma non deve fare niente, la signora. E non ci vuole andare, lasciamo bene, non ci vuole bene, andare. Perfetto. Signora, che dobbiamo fare? Senti, ma cantiamo allora, le canzoni, com'è che fa? Ma veramente vuoi fare la cantante o no? Ma sì, guarda, se vuoi ci canticchio anche un po'. Ma sei d'accordo con Viola Valentino o no? Sì, io non ho parlato ancora, c'è un signore appunto. Che si chiama Domenico. Ma lei lo sa. Non ha parlato con nessuno, dai, ma non lo sa nessuno, dai, è un'idea sua, è una stupidaggine sua. Lei dice, voglio fare la cantante. No, ieri sono stato in studio. No, ma in studio che la signora Viola Valentino, la sa che vuoi fare... Uscirà un CD con... Viola Valentino mancava il CD nel modo normale, poi ci sarà un remix per le discoteche e poi ci sarà il mio canzone. Ma lei lo sa, la signora Viola Valentino lo sa o no? Lo sa, ma lo sa lei, ci hai parlato? Adesso la chiamo Viola, è una mia amica. amica, figurati, adesso la sento la Valentina. Lo sa, vabbè, si chiama Viola, non la chiamo, guarda. Come io chiamo l'aiuto da Viola, e se lei mi vuole aiutare in questa facendo, togliendomi dalla vita di prostituzione, non capisco cosa c'è di male. No, nulla. Cosa più bella com'è che fa la canzone? Una com'è? Trans, molto conosciuta, una prostituta, un giorno vuole cambiare la vita, secondo me bisogna applaudire, bisogna dire complimenti. Parenzo, dovresti essere fare. Contento. Potrei, vorrei essere un idolo per tante persone che fanno questa. Parenzo non ci crede, la realtà è... male. Ferma un attimo, che sentiamo come canta non ci... questa. Ah, sentiamo, sentiamo, sentiamo. Parenzo, dovresti crederci. Sentiamo come canti, vai. Così. Sentiamo come canti. Sentiamo. Vai. Se sei tu perché ti hai lasciato, se per lei sei un uomo sbagliato, se non sei mai stato un artista o non sai cos'è una conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo da fico, se non vuoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo, comprami. Io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, ma un po' di amore un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per venir via. Va bene ragazzi, però applauso. Adesso senza musica, senza niente, dopo però mi devo ricredere. Però cosa? Vedremo. Dice Parenzo che si mi deve ricredere. Ricredere, davvero. Ma è una comprami, io sono in vendita. Però, senti, senti, senti, io perché... sono in vendita. Sì, però, e non mi credere, irraggiungibile. Terribile, meglio F. Meglio F, forse sì. Meglio F. Senti, ma con quanti uomini sei stato in tutto in questi anni? Tanti, tantissimi. Tipo? Quanti? Migliaia di uomini. Che ne so, dai un numero, 3.000, 4.000, quanti? No, ma 3.000, 4.000 sono pochi. 15, 16 mila? Forse anche di più, sì, sì. 15, e 16 tra l'altro ho ancora la voglia, ti immagini? Eccola, bella finale, la bella finale di partita. Se fossi un uomo normale, che forse aveva soltanto una moglie, non so che fine avrei fatto. Io scopo ogni giorno, anche con uomini diversi, dettagli. Ho sempre la voglia. Una cosa incredibile. Tra l'altro divento ancora peggio con il tempo scusa, che passa. Scusa, ma non è che se peggio. Cambiando vita ti tagli il pisello, no? Questo assolutamente non ci credo. Io sono felicissimo così fondamentale. Come sono io. La domanda chiave. Certo, non, per forza. Non c'è bisogno. Cioè, magari io trovo un sceicco che mi dice guarda amore un sceicco. Sì, un sceicco. No, no, perché ma ti vuoi sposare per caso? Ti vuoi sposare? Uno di Benetton, uno di Ferrero Rocher, no? Ma ti vuoi sposare? Nel futuro ti vuoi sposare o no? Oggi come oggi che si può anche almeno creare un'unione civile. Ti vorresti sposare o no? Sì, perché no? E un figlio? No, non adotterei mai un figlio, veramente. Ho saputo sempre i miei limiti in tutta senti, la mia su vita. Senti, su 100% di uomini che sono venuti da te, quanti è che lo vogliamo pigliare dietro anche? 90-95%, perché quella è la trasgressione, altrimenti 90-95% sono stati sì, passivi con te. Dai, Enrico viene da me, alla fine vuole anche assaggiare, vuole anche provare questo. Beh, non e c'è che, dubbio. Tra l'altro, la cosa più normale beh, che oddio, diciamo adesso, così, la cosa è normale, Parenzo, è normale per te, è normale per te, Parenzo. Assoluto di normalità con la signora Efebal. Non voglio discutere di cosa è normale, tutti quelli che vedono tutte queste cose, qua sono i primi. Ciao ragazzi. Ciao, un bacio, ciao. Radio 24. Libera la voglia di fare.